Sabato 5 novembre 2011. Lo dio c'è che ci spappola negli occhi di chi guarda. Non... Arte Express. Una fiamma che non scalda. Brucia una folla che ora parla. Cui non puoi dare la caccia o tenerla alla larga. Artisti a confronto per disegnare alcuni spazi dello scuolo. Rabbia, basta dare un fil di voce alla massa rimasta. Il volume si alza, l'intensità incalza, la lucidità si trasmette nell'aria rarefatta. Dalle 16, murali resistenti. Possa cambiarla nel frastuono. Dalle 18, aperitivo. Con noncuranza. Dalle 22, in concerto. Fermarla. Bubu Funk. Si staglia celeste. Energia. Celeste costretta a voltarsi per contemplarla. L38 Squad, via Domenico Giuliotti 8X, Sesto Ponte, bus 776 e N21 da Metro B Laurentina. Saliva e schiuma bianca, non cerca luci di ribalta, vuole luci di pensiero ad animarla, le parole o vanno altrove, vanno a vanvera, come si fa a biasimarla, se poi si perdona ancora Pandora e la sua anfora. Fuori di qua non resteremo più prigionieri, ma evaderemo come Steve McQueen o come il grande Clint in fuga dai cadrazzi. Superiore, quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì, scusi secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale. Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura. Sempre spiato. Non si fa educare le persone. Ho paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trova di essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. C'ha paura. Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato. Ma a me non mi sta migliorando. Gitana mia, por lo meno date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Liberare tutti. lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. Liberi tutti, liberi, liberi, liberi, liberi tutti. Allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che viene onda ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E un abbraccio a tutte e tutti. E allora da questi microfoni giungano appunto a tutti e tutte gli auguri di buona libertà e non in primo, perché ovviamente gli abbracci, gli auguri vanno a tutti e tutte indistintamente coloro che sono privati della libertà, però un saluto particolare, se volete, e diciamo personale, lo mandiamo alle compagne e compagni arrestati il sabato 15 e invitando anche tutti coloro che ci ascoltano a mandare lettere, telegrammi, scrivere insomma per testimoniare la solidarietà. Salutiamo quindi Fabrizio, Giovanni, Giuseppe, Alessandro, ancora Giovanni, Lorenzo, Robert, Valerio e Stefano e Ilaria ovviamente, che sta al femminile dire Bibbia. Tutte queste persone stanno ristrette alla casa di Regina Celi. Probabilmente vi è giunto anche quel ragazzo che era stato arrestato a Chieti, perché dopo il pronunciamento del GIP, che ha confermato purtroppo gli arresti in carcere e ha dichiarato l'incompetenza territoriale, perché i fatti sono venuti a Roma, quindi dovrà, o è stato già trasferito o sarà trasferito da Chieti al carcere di Roma, quindi si troverà anche lui a Regina Celi, o se non c'è già ci sarà tra un poco. A questi compagni mandiamo il massimo di solidarietà a loro e l'augurio che possano riacquistarla più presto la libertà, anche perché così come riteniamo che nessuna detenzione sia dal nostro punto di vista legittima, queste sono state proprio delle squallide, vergognosi tentativi di trovare un gruppo di persone come capro espiatorio di una manifestazione che aveva visto decine di migliaia di persone protestare anche pesantemente di fronte all'arroganza e alla violenza della polizia. Quindi voglio dire, se responsabili ci sono migliaia e migliaia sono i responsabili, non sicuramente 12-13 persone. E va bene, e se noi li abbiamo chiamati per nome, non per cognome. Se però qualcuno vuole scrivere a loro, può telefonare in radio e noi diamo ovviamente i nominativi per poter rimandare un telegramma oppure una lettera in cui scrivere, così fa sempre piacere ricevere lettere o cartoline in carcere. E a proposito della manifestazione, perché appunto in realtà la, come dire, la repressione, il quadro del rapporto, quella che si chiama volgarmente giustizia, che però giustizia non è, o comunque se volete giustizia di classe, cioè delle classi potenti di fronte alle classi subalterne, ai poveri, a quelli che non contano, è, diciamo, si manifesta sempre, però poi fa delle, come dire, delle accelerate in alcuni momenti che i giornali o anche gli storici e soprattutto i politici chiamano emergenze. E questa, di fronte a una manifestazione in cui la gran parte dei manifestanti ha manifestato appunto la rabbia di fronte a una situazione economica, sociale che degrada sempre di più, è chiaro che lo Stato vuole rispondere con misure repressive ulteriori. Sapete tutti, perché se ne è parlato dal giorno dopo, dal 16, dal giorno dopo la manifestazione, cominciato a blaterare i politici, e qualcuno ha parlato di, tra l'altro in maniera anche abbastanza incompetente, strano che dei politici non sappiano, qualcuno ha detto ripristiniamo la legge reale, come se la legge reale fosse stata in qualche modo cancellata. Non è mai, purtroppo non è mai stata cancellata, c'è stato un referendum che purtroppo è stato perso per cancellarla, quindi la legge reale purtroppo è operante, attiva, attivissima, è stata inserita nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quindi a volte non si chiama più legge reale quando viene fatto, per esempio, una, come sono state fatte in questi giorni, subito dopo la manifestazione, una serie di perquisizioni senza il mandato della magistratura. Uno dice come, è strano, no? Un paese democratico di diritto, si chiama appunto un paese di diritto, non uno stato di polizia, la mattina alle 5 ti vengono in casa dei poliziotti, uno dice, normalmente dice, ci avete il mandato? Quindi io non ci abbiamo il mandato del magistrato, allora com'è possibile? Perché è la legge reale, che però loro non ti dicono in base alla legge reale, ti dicono in base al testo unico di leggi di pubblica sicurezza, possiamo entrare a fare una perquisizione senza mandato della magistratura se riteniamo che ci sia possibilità di trovare armi da fuoco o esplosivi. Questa è una prerogativa che ha dato la legge reale, poi inserita nel testo unico, che è quello che trovate in sigla TULPS, ecco, testo unico leggi di pubblica sicurezza, è stata inserita appunto nel 1975 con quella famigerata legge reale, che ha cambiato, non, cioè, se, ovviamente non c'è mai una data, però se vogliamo trovare una data che ha cambiato abbastanza, anche se pure da prima le cose cominciavano pesantemente, poi lo vedremo, per esempio 8 mesi prima, alcuni mesi prima, la legge del 75, del maggio 75, la legge reale, però già negli ultimi mesi del 74 era stata portata alla carcerazione preventiva, era stata allungata già nel 74, e poi nel 56 c'erano state, insomma, però vogliamo dire, se vogliamo trovare una data di inizio delle leggi speciali che poi continueranno, soprattutto arriveranno a quelle del 79, le cosiddette leggi Cossiga, che peggioreranno ulteriormente il quadro del rapporto tra Stato repressivo e cittadini e gente, popolazione che vuole protestare, che vuole manifestare le proprie esigenze. Quindi si può trovare questo spartiacque con la legge reale. Legge reale del 75 che fu fatta in presenza di un governo che, secondo alcuni storici, e qui è bello ragionare un po', bisogna sempre allargare lo sguardo, no? Alcuni storici dicono che quel governo, il governo Moro La Malfa, che governò dalla fine del 74 per un paio d'anni, poi fu cambiato più volte, era un governo particolare, perché per la prima volta dal dopoguerra e anche per la prima volta nella storia d'Italia, un governo con la Democrazia Cristiana al governo e un partito come il Partito Repubblicano da sempre nelle compagini governative, apriva all'opposizione, al Partito Comunista, che era appunto l'estrema opposizione, però si riteneva tale, al Partito Socialista, aveva già aperto con i governi di centrosinistra del 64, 65 e così via. Con il governo Moro La Malfa del 1900, fine 74-75, si apre anche ai comunisti, che non entrano nel governo, ci entreranno successivamente, però cominciano a dare la non opposizione, quindi un governo che si immaginava di larghe intese, perché formalmente era il governo di CPRI, quindi Moro La Malfa, però gli altri partiti non davano voto contrario, cioè era un'opposizione esterna nel governo, ossia nei ministeri c'erano solo uomini della DC e del Partito Repubblicano, però gli altri partiti, compreso il Partito Comunista, stante il fatto che avevano evidentemente concordato un programma, non erano oppositivi, cioè si chiamava il governo delle non opposizioni. Quindi tutti gli altri partiti che non facevano parte del governo, compreso il PC, non votarono contro, ma si astennero e quindi diedero via libera a questo governo. Bene, quindi dove per molti storici è un governo che si apre a larghe intese, quindi un governo di unità nazionale, insomma non si chiamerà ancora così, però comincia ad aprire il quadro ai governi di unità nazionale, di concordia nazionale, questo scrissero molti giornalisti, quindi di pacificazione si vuole aprire. In realtà il primo provvedimento che fece, perché nella primavera, nel maggio del 75, fu la legge reale, che è una batosta per quelli che si aspettavano, e forse in maniera un po' ingenua, delle aperture. Aperture un ciufolo, direbbe qualcuno, perché la legge reale è stata una mazzata di quelle spaventose, e non è stata abrogata. Quindi, con buona pace del signor Di Pietro, che dice ripristiniamo la legge reale, il buon leader dell'Italia dei Valori credo che dovrebbe ripassare un po' qualche libro di diritto, perché non è stata mai abrogata purtroppo la legge reale. Tant'è vero che poi si sono corretti, ha detto facciamo la legge reale bis. Allora, la legge reale che cosa diceva? Vi ricapitoliamo, perché ormai appunto non è più legge reale, è stata inserita, è interna a un testo unico, al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, quindi fa parte di questo corpo unitario che è il testo, un testo unico. Allora, dice intanto che effetti ha portato. Dal 75 al 1990, quindi nei primi 15 anni di applicazione della legge, grazie a questa diciamo libertà tra virgolette che ha dato la legge reale alle forze di pubblica sicurezza, ai carabinieri, quindi alle forze in ordine pubblico, di poter usare liberamente le armi da fuoco, ci sono state 625 vittime, 625 vittime, 254 di queste sono morte, 371 ferite gravi. E di queste persone voi direte, beh, ma forse erano rapinatori, sequestratori, chissà che stavano facendo. No, erano queste persone, che cosa hanno fatto di così grave? 208 di questi 254 morti provocati dalle armi da fuoco delle forze di polizia, quindi carabinieri, OPS o anche guardia di finanza, 208 morti non stavano commettendo assolutamente nessun reato, semplicemente non si sono fermati ai posti di blocco. Il principale numero di morti fatti dalla legge reale è stato questo, perché praticamente fino a prima della legge reale, nonostante l'Italia non fosse un paese, mai è stato un paese così libero, eccetera, eccetera, tuttavia fino a prima del maggio 75, quando c'era un posto di blocco, spesso i posti di blocco venivano fatti da agenti di pubblica sicurezza, ma in borghese, quindi chi arrivava di notte in una stradina vedeva un gruppo di persone armate, insomma non è che fosse molto invogliato a fermarsi, tirava via. In realtà loro prendevano la targa e insomma facevano e rischiavi una denuncia, eccetera. Con la legge reale no, rischi la morte, perché loro sono autorizzati a sparare, se non ti fermi a posto di blocco ti sparano. Questo anche se il posto di blocco è fatto da persone non in divisa, quindi non individuabili tranquillamente. Loro dicono c'è la paletta, a parte che la paletta si trova a Porta Portese, la trovate quante ne volete di palette, quindi tutti i sequestratori, quelli che poi hanno fatto i sequestri, i famosi sequestratori di cui parla la cronaca nera, ovviamente utilizzavano la paletta quando volevano fare un sequestro, perché la paletta si trova a due soldi, cioè non è difficile. Eppure, tuttavia, pur essendo in borghese, la legge li autorizzava a sparare, quindi 208 morti, non avevano fatto nient'altro se non fermarsi a un posto di blocco. E i 371 feriti. Vabbè, quindi non stavano facendo un reato, non è che l'hanno presi, c'era una rapina, sono entrati, c'è un conflitto a fuoco, non è una cosa bella, però vabbè, si può pensare, no, come si vede nei film. No, queste erano persone che semplicemente probabilmente hanno avuto paura di fermarsi di notte a un posto di blocco e sono state ammazzate a freddo, assassinate. 254 persone assassinate a freddo, 371 feriti gravemente. Questo fino al 90, poi il conteggio non è stato più fatto da nessuno, purtroppo, ma è continuato. Vi portiamo alcuni casi. di questo. Eccolo qua, questa ragazza, Laura si chiamava, 28 anni, la ragazza si era fermata in auto con altri parenti vicino all'abitazione, per caso, della propria famiglia, aveva accompagnato delle amici a casa e stava, come succede normalmente, no? Accompagni una persona a casa, ti fermi due minuti a chiacchierare, a fumare la sigaretta, a dire allora ci vediamo, tot. Purtroppo il posto dove si era fermata era vicino all'abitazione della famiglia Moro e di altri politici, cioè era un posto abitato da questi, ma probabilmente lei non lo sapeva. A un certo punto si sente battere ai finestrini e si trova puntata una pistola in faccia. E quindi chiaramente, insomma, immaginate, di sera tardi, al buio, si vede una persona che ti bussa ai finestrini e si vede una pistola. Non vede la faccia della persona, perché da un finestrino non vede la faccia, vede una pistola in faccia. Presa dal panico, prende, mette in moto e parte, cosa che avrebbero fatto tutte le persone. E quello che fa, piglia e gli spara e muore. Questa ragazza muore. Questa fonte è del Paese Sera del 7 gennaio 1981. Altro caso a Firenze. Questo si chiamava Roberto, 32 anni, stava tornando in banca, era un impiego di banca, quindi non era un malvivente, anzi, è un impiego di banca, tranquillo. Dopo l'intervallo del pasto, stava rientrando al lavoro, dopo l'ora di intervallo per mangiare, sul motorino. La guardia di sorveglianza alla banca, non riconoscendolo, ma non perché c'era il casco, allora non si portava il, che non era obbligatorio il casco, chissà perché, vede questo col motorino che arriva, forse aveva fatto tardi, stava correndo verso la banca, gli spara e lo uccide tranquillamente. Lui poi dirà che gli si era impigliato il mitra, non si impigliano, diciamo, cazzate. Comunque gli aspetta un altro morto, altro il caso dei mitra che sparano da soli. San Benedetto del Tronto, Ennio, 35 anni, viene ucciso da 3 colpi di pistola sparati da un agente della Digos in compagnia della sua fidanzata. Non si era fermato al posto di blocco, inseguito da agenti in borghese, temendo di essere vittima di mali intenzionati, perché era sera, vede delle persone in borghese armate che lo inseguono, lui fugge, questi gli sparano, lo uccidono. Tutte queste sono notizie comparse sui giornali, quindi reali, poi c'è stata anche inchieste ovviamente che non hanno avuto seguito perché la legge dà autorizzazione alle guardie di sparare. Ancora, Torino, Renato, 44 anni, durante l'inseguimento di un ricercato, inseguivano un ricercato che era un'altra persona, un poliziotto in borghese a bordo di un'auto civile si ferma a un semaforo rosso, scende, si mette in posizione di tiro e spara alcuni colpi. Pensava di essere Tex Willer, pensava di colpire il ricercato a cui correvano appresso, invece colpisce un operaio che stava uscendo da una cabina telefonica dove aveva fatto una telefonata, viene ucciso, tutto tranquillo, non succede niente. Viva l'Italia. Vi diamo l'ultimo, per la lista potremmo fare tutti i 372, ma vi risparmiamo. Claudio, 19 anni, questo è un ragazzino, un'auto con 3 giovani a bordo viene fermata dai carabinieri per un controllo. Un poliziotto intima a Claudio di salire sulla sua auto. Il giovane si rifiuta perché vuole aspettare gli amici, dice vabbè, andiamo via tutti insieme. Invece viene spintonato e preso a schiaffi dal poliziotto e poi che gli punta la pistola alla testa e gli spara. E questo è, questa fonte sta sul Giorno, in giornale non sospettabile. Queste sono le belle. No, come dire, la bella rete, e poi ha continuato e continua. Ora, a vedere delle squallide miserie umane che sono i politici di questo paese, di destra e di sinistra, perché su questo avete visto sono tutti d'accordo, per una manifestazione che è stata semplicemente un po' violenta, ma forse molto meno di quelle che questo paese ha conosciuto nella sua storia, dovute appunto al fatto che le situazioni sociali, i problemi sociali non si risolvono, non vengono risolti ma vengono lasciati lì marcire e quindi a che punto producono rabbia, incazzatura e quindi anche ovviamente violenza, di fronte a quello, invece di affrontare il problema che quella manifestazione o comunque questo problema pone, il problema della difficoltà, i dati poi, no? Lavoro che manca, eccetera, eccetera, condizioni di vita bestiale, vengono affrontati in termini di sparare a chi si muove. Questa è la miseria di questo paese. Ora, non è che c'è nulla da aggiungere, c'è soltanto da riflettere perché, insomma, sì, è chiaro che appunto non c'è stata discussione. Perlomeno nel 75 c'era un gruppo di parlamentari che si chiamavano della sinistra indipendente, molti dei quali erano personaggi di notevole spessore, Anderlini, Basso, Terracini, gente che costituenti, come si dice, no? Quindi pur appartenendo singolarmente ai vari partiti, però avevano una statura morale e anche intellettuale, cioè non erano ignoranti come il Di Pietro o il nostro capo del governo e tutta la sua accozzaglia e anche quelli dell'opposizione, erano persone che avevano la loro dignità. Loro fecero una grossa resistenza, una battaglia, la persero, ma fecero una battaglia nella società e in Parlamento contro la legge reale. Adesso invece sul dibattito che si è sviluppato, facciamo la seconda, la legge reale bis, eccetera, eccetera, l'emergenza, eccetera, non c'è stata una voce di dissenso. Quindi, come vedete, il degrado miserabile di questo, del ceto politico di questo paese, ci obbliga tutti noi, tutte noi, di non delegare più niente a nessuno, ma prendere in mano i propri problemi, siano essi quelli che stanno in un quartiere, in un posto di lavoro, nel carcere, ovunque sia, perché con questa gentaglia, quelli che stanno appunto al Parlamento, non c'è nulla da pensare di risolvere. Allora, passiamo ad un altro argomento velocemente, che però è un po' sullo stesso piano. È uscito ieri, qualcuno l'avrà visto, sicuramente se ne è parlato, questa radio l'ha letto nella rassegna stampa, ha dedicato parecchio spazio alla riflessione su questo dato. Ieri sul Manifesto c'era un paginone, tutta una pagina 7, giustamente dedicata a ciò che avviene nelle carceri, però non le solite cose, il sovraffollamento che pure esiste ed è un dramma, la mala sanità con cui muoiono tante persone, i suicidi che sono ancora i più alti d'Europa, ed altre infamità che avvengono nelle carceri, ma il fatto che in un carcere ad Asti c'era una squadretta di guardie che torturavano, letteralmente torturavano i detenuti, e sono stati rinviati a giudizio, per cui il fatto è scoppiato. Un'indagine ben condotta, con testimonianze e intercettazioni, stiamo leggendo il manifesto, porta alla sbarra 5 poliziotti accusati di maltrattamento, ma ora incombe la beffa della prescrizione. Ma questo è ovvio. Allora, qui c'è tutto un articolo di Patrizio Onnella, che di Antigone, che appunto parla di questo, e viene intervistato da poi ancora Leonora Martini, che dice intervista uno dei detenuti: in quella cella era un incubo, ma io non ho mai tentato il suicidio. Le denunce di due reclusi hanno rotto il silenzio, altri secondini hanno parlato una volta scattati. Che cosa succedeva? Che c'era credo che avvenga, per quanto conosco le galere, non in tutte le carceri, ma in gran parte delle carceri italiane c'è una squadretta, viene chiamata la squadretta, che sono delle particolari guardie, gruppi di guardie, ma non tanto addestrate fisicamente, perché non è un problema fisico, ma un problema di testa, insomma, che hanno comunque vengono così incaricati di intervenire nei momenti più d'emergenza, anche lì c'è l'emergenza, autorizzati dalla direzione, a volte anche dal ministero, di sedare situazioni di tensione. Il modo con cui cercano di sedare queste situazioni è quello che potete immaginare: pestaggi, schiaffi, pugni, calci, isolamento del detenuto. Si chiamano squadrette, appunto, squadrette di pestatori, però in realtà in carcere il termine è squadretta. Quando si dice squadretta si capisce a cosa si riferisce. Qui è uscito fuori un fatto grave, ma c'è, ricordiamo il caso di Sassari, tantissimi ogni tanto escono fuori. Questa volta il carcere è quello di Asti. E va bene, vediamo un po'. Dopo è scattata l'inchiesta, e l'inchiesta ha fatto venire fuori il marchingegno. Questo qui parla questo Andrea, 33 anni, è uscito, non è più al carcere di Asti, e racconta che succedeva. Dice dove racconta che vengo rinchiuso nell'ultima cella a sinistra, nell'ultima Renne, un altro detenuto stava nell'ultima a destra, dalla parte opposta c'erano altri detenuti in altre celle. Da subito iniziano le violenze, mi lasciano completamente nudo con una branda senza materasso né coperte, alle finestre non c'erano vetri e faceva molto freddo, c'era un piccolo termosifone acceso, ma se provavo ad appoggiarmi gli agenti battevano sulle sbarre e mi insultavano. Io non dormivo mai perché sapevo che quando bevevano le guardie o si drogavano poi venivano a picchiarci. Domanda l'intervistatrice: si drogavano? È un'accusa grave questa. Ho raccontato tutto all'ispettrice di polizia e al pubblico ministero, perché ormai la denuncia è avviata e va avanti. Si vedeva nei loro occhi che avevano tirato cocaina e avevano bevuto. Erano troppo esaltati, con una cattiveria che non era normale. Non mi davano quasi mai nulla da mangiare o da bere, e quando lo facevano ero sicuro che ci avessero sputato o urinato dentro. Quindi rifiutavo e rispondevo ai loro insulti, e loro si scatenavano, mi picchiavano di giorno e di notte con gli affibbi, e io, rannicchiato per terra, cercavo di coprire faccia e testicoli. Non lo facevano solo con me, ho sentito le grida anche di altri detenuti malgrado chiudessero i blindati. A volte al pestaggio partecipava anche qualche detenuto loro alleato. La domanda del giornalista: chi poteva accedere al reparto? Il medico, ma non veniva mai, e l'infermiera per le terapie. Io prendevo dei tranquillanti, altrimenti impazzivo, eppure non riuscivo a dormire per la paura. Altra domanda: l'inchiesta sul carcere, dice così la giornalista, l'inchiesta sul carcere di Asti si apre dopo che un assistente di polizia penitenziaria e la sua convivente vengono arrestati per droga. Da lì partono le intercettazioni su questi due, e la prima testimonianza raccolta è quella di Renne. Lei però nega tutto. Perché? Perché ero stato trasferita da Aosta, dove non conoscevo nessuno e avevo paura. Questo detenuto, nel momento che scatta la prima inchiesta, e questo è un dato importante da tener conto per capire com'è la trasparenza, com'è la giustizia, questa parola che prima di usarla molti si dovrebbero sciacquare la bocca con l'acido muriatico, perché non esiste la giustizia finché le persone non siano messe in condizione di poter parlare liberamente. I detenuti raramente denunciano perché sanno che poi stanno in balia. Ricordiamo il fatto di quel ragazzo poi morto perché aveva denunciato era il minorile, aveva denunciato, ora non ricordo i nomi, ma ne abbiamo parlato parecchie volte in questa trasmissione, aveva denunciato le guardie che avevano poi scattato l'inchiesta e questi erano andati anche in qualche modo, erano stati condannati. Questo ragazzo poi, anche se si è spostato di carcere, la voce tra le guardie è girata, è stato massacrato di botte nel carcere dove è arrivato, quindi chiaramente lui aveva paura, dice io non ho, perché ero stato trasferito da Aosta dove non conoscevo nessuno ed avevo paura, non aveva dei compagni detenuti che avrebbero potuto proteggerlo. Possibile che tutti gli agenti fossero collusi? Dice, risponde, c'era un brigadiere siciliano che a un certo punto cercò di farli smettere, me lo disse un detenuto che partecipava ai pestaggi e i miei amici che dalle finestre di sotto mi urlavano di resistere, che stavano cercando di aiutarmi. Lei ha mai tentato di suicidarsi? No, dice, ho fatto un gesto di autolesionismo solo una volta, però dice non ho mai già. E invece gli agenti sostengono di averla salvata da un tentato omicidio. Un giorno mi portano un bel piatto di pasta e io sfinito accetto, anche se penso a cosa possono averci messo dentro. Poi non mi ricordo più nulla e mi sveglio in ospedale col collo tutto viola. Mi dicono che ho tentato di suicidarmi, ma non è vero. Io ero completamente nudo. Dove avrei trovato il laccio delle scarpe? E il gancetto dove dicono che mi sarei impiccato non avrebbe mai retto il mio peso. Mi hanno riferito che al cambio turno delle 16 una guardia mi avrebbe trovato in quelle condizioni. E dice la giornalista, ma se avessero voluto ucciderlo non l'avrebbero fatto al cambio turno. Non so, forse si erano mossi da impulsi bestiali, come vive adesso, ho sempre paura di uscire, ho paura di vederli anche in tribunale, soffro di attacchi di panico, sto cercando un lavoro, ogni tanto vabbè faccio l'elettricista, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il quadro. Ora, che si tortura nelle carceri è un dato di fatto, nelle carceri italiane, ma probabilmente in tutte. Non sempre, non tutti quanti, nei momenti però di tensione, se c'è un po' di maretta, se ci sono dei detenuti particolarmente, come dicono loro, agitati, la squadretta entra in funzione. Ci sono le squadrette in ogni carcere, poi ci sono delle squadrette mobili che girano al servizio del ministero, vanno nelle carceri dove c'è particolarmente tensione e vanno a ripristinare l'ordine, lo fanno con i loro metodi, questi descritti qua ad Asti. Ora, qual è il problema? C'è un dibattito, alcuni, per esempio la stessa Antigone, alcuni democratici dicono si stanno battendo per dire in Italia manca il reato di tortura, che ovviamente si applica soltanto esclusivamente a coloro che hanno in possesso altre persone, quindi agli agenti, diciamo, di pubblica sicurezza, ai carabinieri o alle guardie penitenziarie, cioè a coloro che hanno in possesso una persona e esercitano su di questa, che non può sottrarsi perché non è libera, delle violenze particolari, quello è il reato di tortura. In Italia non è applicato, mentre tutta Europa e l'Unione Europea fa più volte come dire, pressioni verso il governo italiano e il Parlamento italiano perché applichi questo reato. In Italia non si applica perché la collusione mafiosa tra governo, forze dell'ordine, magistratura è talmente forte che chiaramente non si farà. Però io noi riteniamo, insomma, questo c'è un dibattito anche nel movimento, però noi riteniamo che non sia necessario, mentre è utile la denuncia questa che facciamo e che dobbiamo fare tutti i giorni, non solo da questi, ma andrebbe fatta nelle piazze di questa città, ma anche delle altre, bisognerebbe ogni tanto mettersi lì in 3-4 con un megafono, qualche fotografia, pezzi di giornale, pezzi di carta con cui scrivere col pennarello delle frasi e raccontare che cosa succede nelle carceri, fare quindi controinformazione e dire che in Italia si tortura, non solo ad Abu Ghraib, non solo a Guantanamo, ma anche in Italia si tortura. Però poi chiedere e fare una battaglia per applicare, per mettere una legge, ecco, così come non siamo d'accordo sulla legge reale, non siamo d'accordo manco su questa legge, come vedete non è un problema di tifoseria, la legge reale chiaramente andrebbe, tutte le leggi di pubblica sicurezza andrebbero abolite perché sono una nefandezza e l'abbiamo dimostrato, ma anche questa non sarebbe, perché se il problema non è tanto che ci sia una legge che persegue il poliziotto o carabiniere che va oltre i propri doveri e quindi esercita violenza nei confronti delle persone che ha in custodia, ma il problema non è quello, non è la legge che ti risolve, perché poi chi dovrebbe denunciare quella gente che usa violenza? Il suo superiore. Il suo superiore risponde a un altro superiore, poi il magistrato, cioè si rimette nelle mani dello Stato, che abbiamo visto come è quello della legge reale, è quello del governo Molo Lamalfa, che è il peggior governo che ha visto questo paese, è quello di Cossiga, è quello di Andreotti, è quello di Berlusconi, è quello di Di Pietro, cioè questo Stato non può salvare noi coloro che diciamo sono coloro che insomma che si ribellano e quindi entrano nelle mire di coloro che ci vogliono far tacere, con le buone o con le cattive, più spesso con le cattive. L'unico problema, l'unico modo per fermare queste torture, così come per affrontare seriamente il problema del carcere, non è che ci siano delle leggi, perché poi ci stanno pure in Italia delle leggi che non vengono applicate. Il problema è un rapporto di forza che dobbiamo realizzare a partire dai territori. Ho detto, se le piazze italiane si riempissero di persone che volontariamente ogni settimana, per esempio in una piazza, in un quartiere, un gruppo di persone, e non c'è bisogno che chiedano autorizzazione a nessuno, comunicano soltanto al municipio che da quell'ora a quell'ora staranno in quella piazza per fare informazione, si mettono lì con un banchetto, danno dei volantini, danno informazioni, la gente frequenta le piazze, quindi si parla con la gente. Ecco, questo è l'unico modo, è questo che poi moltiplicando per 1.000, per 1 milione di piazze, per 1 milione poi si possono fare da lì manifestazioni sotto le carceri, insomma è quello il modo per far fermare le violenze, le torture, le brutture nel carcere. Non c'è bisogno di altre leggi, perché non servono, perché poi chi le applica sono loro stessi, gli stessi che bastonano sono gli stessi chiamati o che coprono i bastonatori ad applicare una legge, quindi non è quella la battaglia giusta, non è introdurre il reato di tortura, anche se sì, su un piano per i giuristi interessa che questo paese è l'unico che non ha questo reato, ma non è che mettiamo 25.000 leggi in più, non serve a niente. Il problema è creare un contropotere reale fatto dalla gente che si attiva in prima persona, non delega niente a nessuno, non serve andare a votare o altre baggianate di questo genere, ma serve scendere da casa e andare in piazza, ritrovarsi, organizzarsi, ma non ci vuole niente, trovare un banchetto, tutti hanno a casa un banchetto, due sedie, e mettersi nelle piazze più spesso possibile per parlare con la gente e denunciare quello che succede nelle carceri. Questo è quello, questo può cambiare e cambierà, se avviene, la realtà delle carceri, la tortura, così come i pestaggi, così come anche l'arroganza della polizia che abbiamo visto in piazza il 15 di ottobre. Per esempio, a questo proposito ci viene in mente una canzone che mi sembra che fosse di De Gregori, che diceva appunto: cercavi giustizia e hai incontrato la legge, quindi la dice lunga, insomma, accontentiamoci della canzone per adesso, perché poi, ecco appunto, altro che succede nelle carceri, a proposito di giustizia, appunto, di tutta la situazione delle tutte le morti che sono appunto sospette, e può avvenire anche appunto di qualcuno che è giudicato guaribile in 30 giorni, poi in realtà gliene sono bastati tre giorni e tre notti proprio di calvario, che gli sono bastati per morire a 30 anni. E questo appunto è la notizia, che i carabinieri l'avevano arrestato di venerdì sera per resistenza a pubblico ufficiale, nei pressi di una rivendita di tabacchi a Camaro Inferiore, in provincia di Messina, e l'uomo ha cominciato a dare in escandescenze. Non era stato affatto semplice, appunto, dice l'articolo, per i militari infilargli le manette ai polsi, perché ubriaco com'era, al loro arrivo aveva preso a sferrare calci e pugni e a dimenarsi al punto pare da sfuggirgli dalle mani, perdere l'equilibrio e, guarda caso, ha perso l'equilibrio e sbattuto il viso sul pavimento. E neanche dopo quella botta però Marcel si era calmato, e perlomeno questo appunto la polizia, questo che racconta, si era calmato e in ambulanza era stato tenuto ammanettato e legato alla lettiga. Poi l'arrivo al policlinico, la diagnosi e una dose di sedativo. Poco dopo la mezzanotte, il trasferimento nel carcere di Messina Gazzi, l'indomani verso le 11, di nuovo in ambulanza verso il policlinico per sottoporlo a un TAC che rileverà appunto un trauma cranico-facciale, la rottura del setto nasale e un edema. Accidenti, non erano riusciti a tenerlo fermo, era una persona sola. Beh, nonostante ciò, dopo l'esame l'uomo viene ricondotto in cella, ma nella notte le sue condizioni peggiorano e domenica mattina, come quelle anime che nella bolgia dantesca sono condannate a correre senza sosta, torna in ospedale, dove fanno un'altra TAC e che conferma la diagnosi della prima, quindi rientro in carcere. Lunedì mattina le condizioni psicofisiche del detenuto sono tali che il giudice per le indagini preliminari non riesce a convalidare il fermo. Poche ore più tardi l'uomo va in arresto cardiaco mentre è già a bordo dell'ambulanza per l'ennesima corsa verso l'ospedale. L'ultima inutile corsa. Vanno infatti ogni tentativo di rianimarlo e a mezzogiorno Marcel viene dichiarato morto. E la diagnosi era stata di guaribilità in 30 giorni, ne sono bastati 3 per mandarlo al creatore. Una morte strana su cui la procura di Messina ha aperto un'inchiesta, mentre una parlamentare ha già depositato un'interrogazione parlamentare per sapere se eventuali lesioni interne siano state provocate da traumi o percosse. Per una beffa del destino, Marcel ha perso la vita proprio nei giorni in cui ricorreva il secondo anniversario della morte di Stefano Cucchi. E c'è solo da augurarsi, termina l'articolo, mentre si attende l'esito dell'inchiesta, che le somiglianze con il caso del geometra romano si limitino a questa circostanza. E questo sempre per restare appunto nei pressi delle morti sospette e di chi vuole poi fare giustizia, appunto. E poi c'è ancora sempre quello che avviene appunto in queste carceri, un appello di un'altra madre, dell'ennesima madre, e a Lecce, che il figlio appunto ritiene sia appunto trattato da animale, dice: nel carcere mio figlio è su una sedia a rotelle ed è tenuto in condizioni disumane. A dirlo è Rita Calia, la mamma di Angelo, 27 anni, detenuto attualmente nella casa circondariale di Lecce e sofferente dopo una recente operazione alla schiena. La mamma disperata di Latiano chiede un aiuto alle istituzioni, allora aspetta parecchio, affinché possano intervenire a favore delle condizioni invivibili, a suo dire, delle carceri del Sud. Il 27enne è detenuto nel carcere di Lecce di Borgo San Nicola da 3 anni. Il 18 settembre scorso, in seguito a problemi di salute alla schiena e una frattura dell'osso sacro, è stato costretto ad operarsi. Racconta questa donna, dice: accusa continuamente dolori, ha subito un intervento per la ricostruzione delle vertebre. Mio figlio è affetto da una malformazione congenita alla colonna vertebrale, così come aveva diagnosticato il medico. Ma quel che mi domando è come si sia potuto fratturare l'osso sacro. Angelo è stato ricoverato presso l'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove ha trascorso 15 giorni. La dimissione è avvenuta il 22 settembre. Il giorno stesso che usciva dal nosocomio, brindisino faceva rientro nella sua cella a Lecce. L'8 ottobre, dice appunto Rita Calia, doveva effettuare una visita di controllo a Brindisi, ma non è mai stato portato, non c'è mai stato portato, nemmeno quando doveva sottoporsi ai raggi X. Quando ho chiesto spiegazioni, mi hanno risposto che mio figlio lo avevano portato da un fisiatra a Lecce e che quello stesso giorno del controllo era stato trasferito nel carcere di Turi, senza un motivo apparente. Quindi questa madre si è recata presso la casa circondariale di Lecce sabato 22 ottobre per un colloquio a Turi, ma quel giorno nessuno gli ha saputo dire dove si trovasse suo figlio. È andata lì, dice, ma dov'è suo figlio? Bah, non lo sappiamo. E perché fosse stato trasferito, come racconta appunto Rita. Solo ieri, come dice, è stata informata delle condizioni di suo figlio e di dove si trovava. Il carcerato necessita, appunto, secondo la madre, di assistenza continua di almeno 10 giorni di fisioterapia. E questo appunto è quello che avviene nelle carceri. altre situazioni allucinanti che possono avvenire è che qualcuno finalmente festeggi in carcere il suo giorno di libertà e come oltrepassa quel maledetto portone gli sia chiesto di seguirli ed essere accompagnato in un CIE. E questo perché? Questo è avvenuto a Elton, un detenuto appunto che il 25 finalmente era il suo giorno di libertà dopo quasi 15 anni di galera. E poi tra l'altro un detenuto che poteva farsi aprire le porte del carcere in maniera anticipata, però appunto come lui sostiene non si è mai piegato a circuiti di delazione, cosa di cui abbiamo già parlato ampiamente nella settimana scorsa, e quindi si è fatto proprio per dignità personale, si è fatto tutti gli anni che gli spettavano e niente, praticamente è stato ha avuto questa brutta sorpresa perché come raccontano appunto da redattore sociale è stato dunque accompagnato nel CIE di Modena e dunque quindi un giorno amaro questo per lui e per tutta la redazione di Ristretti, perché appunto lui tra l'altro scriveva sul giornale Ristretti che ieri appunto lo aveva salutato con un'affettuosa festa. Non è ancora chiaro quanto tempo dovrà trascorrere in questa nuova condizione. Tra domani e dopodomani appunto il giudice dovrebbe decidere appunto sulla convalida del provvedimento che è stato disposto dunque perché e questo lui è andato a finire in questo CIE perché lui è albanese per la presenza di una vecchia denuncia a carico del 2003 dalla quale poi tra l'altro era stato completamente assolto. E qui abbiamo anche un magistrato che tra l'altro sta seguendo la vicenda perché dice che è veramente una cosa assurda. Difatti Ornella Favaro di Ristretti si chiede appunto, dice, è possibile che una persona che esce avendo pagato tutto il suo debito si trovi in queste condizioni la sera della libertà, e tutto per una presunta pendenza penale per cui è stato ampiamente assolto. E quindi poi tra l'altro proprio pochi giorni prima Elton che anzi nelle giornate precedenti aveva scritto mandandolo appunto su Ristretti gli ultimi suoi giorni in carcere prima di uscire. E appunto c'è poi sempre questo solito problema perché questa gente appunto che in fondo è spaventata anche della ritrovata libertà, non è solo un giorno di festa ma anche di profonda preoccupazione. E quindi una delle ultime lettere lui scriveva appunto in questo modo, cioè riportava una lettera che lui stesso aveva ricevuto e da un altro detenuto che era uscito da poco, che gli dice: caro Elton, dovrei raccontarti quanto sono felice di essere uscito dal carcere e quanto sia bella la vita fuori. Dice: invece mentirei. È un mese che vivo nell'appartamentino dei miei genitori, dormo in soggiorno sul divano letto e non sono ancora riuscito a trovare un lavoro. Qui in quartiere sanno tutti che sono stato in gabbia e mi guardano come se avessi la lebbra. Adesso capisco perfettamente che cosa provate voi stranieri quando vi sbattono le porte in faccia. E dice Elton infatti, dice, inizia così la lettera di M, un ragazzo padovano, mio compagno di detenzione, uscito da poco. Tra pochissimo uscirò e inevitabilmente andrò a cercare lavoro. Non ho tante aspettative, vista la crisi che c'è, tuttavia penso di provare nel campo che più mi compete. Immagino come sarà. Camminerò lungo strade sconosciute, busserò ogni negozio di copisteria o grafica e chiederò se assumono. Certo, dapprima mi accoglieranno con un sorriso, ma una volta dichiarato il motivo per cui sono lì, nel migliore dei casi mi chiederanno cosa so fare. Dovrò imparare a sintetizzare il mio curriculum. Forse sarà meglio accantonare le lauree e passerò subito alle esperienze lavorative. Dirò che ho lavorato in una redazione dove ho battuto testi, sbobinato interviste, impaginato riviste, stampato e rilegato opuscoli, creato pagine web, tagliato e montato riprese video, preparato e proiettato slide per seminari e convegni e, nel tempo libero, ho anche scritto un centinaio di racconti. Poi ci sarà forse una pausa. Ci guarderemo e poi, chissà. Nel peggiore dei casi, il sorriso si trasformerà in smarrimento per non aver capito subito che non sono un cliente e forse anche in paura perché l'accento straniero potrebbe tradire cattive intenzioni. Il mio amico nella sua lettera raccontava come l'essere ex detenuto lo faceva sentire, pur essendo italiano, lo faceva sentire uno straniero in casa propria, perché tutti sanno che è stato in gabbia. Allora mi domando se sia meglio nascondere di essere stato anch'io dentro. 14 anni di galera non sono un bel biglietto da visita. Conviene nasconderlo, quindi, per evitare pregiudizi. Però il problema è che questo Elton, appunto, come lui sostiene, ha un carattere complicato. E appunto non è il tipo che si rassegna, ma anche se con sofferenza, appunto, come dice lui, non so rassegnarmi, dice, questo è il mio problema, non so rassegnarmi alla sofferenza o alle difficoltà, il che mi porta sempre a scegliere la strada più difficile, ma alla fine dei conti credo che reagire con dignità paghi. Se è vero che sto facendo la galera fino all'ultimo giorno, perché mi sono rifiutato di entrare in quei circuiti di delazione che spesso ti spalancano le porte del carcere anticipatamente, è altrettanto vero che ho dedicato 10 anni della mia vita a fare informazione dal carcere, che in realtà significa combattere quotidianamente per difendere i diritti dei detenuti da un'informazione spesso incattivita e forcaiola. Significa esporsi, raccontare storie di uomini che non sono solo reati che camminano, lamentare disfunzioni del sistema, denunciare abusi di chi ha un ruolo di potere, insomma, metterci la faccia, per quanto macchiata, in difesa di valori ed idee che vanno oltre ogni interesse di tutela personale. Si chiama sacrificio ed è il miglior allenamento alla dignità. Ecco perché, nonostante ci siano nel mio passato cose che non smetteranno di farmi vergognare, non negherò mai questa parte della mia vita, dovesse costarmi uno stato di disoccupazione perpetua. Questo appunto è quanto scriveva Elton pochi giorni prima di uscire, che appunto è un albanese che adesso rischia di essere risbattuto in Albania nonostante tutti gli anni in cui ha lavorato qui, e quindi questo è già difficile il rientro in libertà per chi è italiano, vi potete immaginare appunto per chi è straniero, in base appunto a tutto quello che lui ha raccontato. Allora, siamo in chiusura di trasmissione, allora due informazioni. Intanto è uscita Scarcerando e quindi appena uscita, diciamo tutti coloro che sono diciamo liberi, libere, quindi non in carcere, di venirsela a prendere qui in radio, appena uscita, tra poco sarà in distribuzione nelle librerie di Movimento. E tra l'altro è già cominciata la spedizione all'interno delle carceri per coloro che ne hanno fatto la richiesta, quindi chi ha fatto richiesta state tranquilli tra qualche giorno, il tempo della posta, che ci mette insomma, un po' di tempo, la posta arriverà scarceranda. E, la prossima trasmissione insomma, la racconteremo come è fatta, cioè solo cioè, al solito l'agenda molto bella, piena di disegni, graficamente molto valida, interessante e anche utile, e poi c'è il libretto allegato, stavolta molto molto spesso, molto pieno di... Tra l'altro lì dentro troverete tantissime, c'è una parte, una notevole parte del libricino allegato alla scarceranda, che sono lettere che voi ci avete inviato, tra le centinaia, ormai siamo a qualche migliaio di lettere che ci avete inviato, che ci inviate dal carcere, sia a volte per richiedere semplicemente scarceranda, sia a volte per raccontarci quello che succede là dentro, come vivete, come sentite le vostre valutazioni sul carcere. Abbiamo riportato alcune numerose lettere o stralci di lettera che ci avete inviato, quindi